Cronache Meridiane di Gianluca Nicoletti. Grazie. Erano una famiglia normale. Caffè? Grazie. Buongiorno. Ma hanno deciso di... È tardissimo. Vivere a Roma. E se prendessimo un Lungotevere? Domani è mercoledì, udienza papale. Piuttosto passiamo per il centro. Manifestazione della CGIL. E se invece facessimo la tangenziale? Con lo sciopero dei mezzi, ma sei matto? Ma in tutto ciò il meteo che cosa dice? Allerta temporale. Dobbiamo essere fuori in 3 secondi! Go, go, go! Caos. Traffico incontrollato. Calamità naturali. Amore, hai trovato parcheggio? Sì, guarda, si sta giusto liberando un posto. E lotta quotidiana per la sopravvivenza. Tu invece hai preso la metro? Assolutamente, mi sono visto. Il posto sta liberando perché il cittadino romano ha messo una bomba ananas sotto una macchina parcheggiata e ci mette la sua. E la signora affronta il viaggio in metropolitana in tenuta da combattimento, con casco in testa e giubbotto antiproiettile. Questa è una sitcom prodotta per il web da dei ragazzi romani. Sopravvivere a Roma è una webserie che sulla vita sulla capitale, che avrà delle fonti di ispirazione fecondissime nei prossimi giorni. Questa parte come uno sberleffo, come tanti siti che già ci sono, Roma fa schifo e via dicendo. Alcuni ragazzi hanno fatto una serie di una famiglia romana che si destreggia in quelli che sono ormai i problemi della capitale. Dicevo, però, da oggi in poi avranno una grande ispirazione nell'inchiesta giudiziaria Mafia Capitale, che è qualcosa che sorprende la neghittosa città proprio in quei giorni in cui un po' di pioggerella aveva bloccato il traffico, ha fatto una sorta di grande massa unica di lamiera per 2 gocce di pioggia. Non si capisce perché i romani, quando piove improvvisamente, vanno nel panico, e la città era ferma. 2 ore e mezzo per uscire da Roma e prendere il casello dell'autostrada, 15 chilometri ci ho messo 2 ore e mezzo. Questo è un fatto personale. La cosa interessante è che improvvisamente in una grande retata sono stati messi dentro tutti: sindaco, ex sindaco, assessori, consiglieri comunali, delegati regionali, responsabili delle grandi aziende, ex malavitosi, terroristi neri di destra, di sinistra, di centro, le famiglie che tengono in mano la città. Si è capito che c'era un grande business su tutto, si spartivano tutto, e queste persone, alcune sono indagate, altre sono state proprio arrestate, quindi è equamente diviso il carico delle responsabilità, ma si sa che il bello deve ancora venire, perché ormai è come il gioco del domino, ne cade uno, ne cadono tutti. Si è scoperto, cosa che già in parte avevamo previsto, immaginavamo, che una sorta di compagnia d'affari totalmente trasversale alla società, alla politica, all'ideologia, si spartiva i grossi affari, i grossi appalti. La cosa che però maggiormente trovo interessante è che anche in quel settore controverso, oggetto di sommosse popolari, di tensioni sociali, che è la gestione degli immigrati e del grande problema dei Rom in questa città, era oggetto di grande business. Una delle persone implicate nella grande retata Mafia Capitale ha detto una frase che ormai rimarrà scolpita nelle nostre memorie come se fosse stata scritta con parole di fuoco: rende più occuparsi degli immigrati che spacciare cocaina. Quindi era un grandissimo business. Ma d'altronde, che a Roma ormai ci fosse la mafia lo sapevamo, chi vive a Roma sa che ormai è quotidiano sapere che è stato ammazzato qualcuno per strada o gambizzato. Sotto casa mia ancora c'è il mazzo di fiori per un derivato di non so quale ramo della banda della Magliana che è stato lì ammazzato, e la madre ci ha messo una lapide con scritto: se qualcuno sa qualcosa parli. Beh, noi, non per dire, ma qualche volta quando abbiamo trattato il problema degli stranieri, della gestione dei nomadi di Roma, qualcuno ci disse a questi microfoni che in realtà il grande business era proprio occuparsi di nomadi, ma non tanto perché, come dicono le persone che scendono in piazza e non capiscono nulla, si spende più per gli zingari che per i cittadini italiani. No, perché in realtà si spende tanto, ma poi all'utente finale di questo fiume di soldi arriva ben poco. Carlo Stasolla, buongiorno. Buongiorno, grazie a voi e ai radioascoltatori. Carlo Stasolla è presidente dell'associazione 21 luglio che svolge attività di ricerca sulle condizioni degli insediamenti rom in Italia con attenzione specifica ai diritti dell'infanzia. Stasolla era venuto qualche volta a parlare a noi e aveva cominciato a raccontarci come funzionava il grande affare della gestione dei campi nomadi. Oggi è roba che è nelle mani dei magistrati, quindi quello che sembrava qualcosa di azzardato, qualcuno mi scritto tu difendi sempre gli zingari, ecco, oggi ne avete prova abbastanza generalmente diffusa. Vediamo di capire come funzionava il sistema, Stasolla, dal suo punto di vista innanzitutto. Beh, innanzitutto è importante che, diciamo, fino a ieri il problema erano i rom e la sicurezza dai rom. Da oggi ci svegliamo con il fatto che il problema non sono i rom, ma tutto il sistema che ruota attorno ai rom e la sicurezza è ben altro. Come funziona il sistema? Non trova singolare Stasolla che proprio le persone che scendono in piazza con i cartelli contro il buonismo sono quelli che alla fine più ce n'è meglio è, perché per loro è un grande business? Beh, questo noi lo denunciamo ormai da anni. Dati alla mano, nell'ultimo rapporto che parla dei soldi spesi dal Comune di Roma nel 2013 si parla di più di 24 milioni di euro per la gestione dei campi nomadi, con 35 enti e organizzazioni che lavorano in questo indotto. Ormai noi abbiamo definito il campo nomadi una media grande azienda con un fatturato di circa 25 milioni con 400 persone che lavorano all'interno. Si tratta di progetti di vario tipo, progetti in cui non c'è un monitoraggio, c'è spesso un'assegnazione diretta, senza bando. Non c'è gara d'appalto, cioè diciamo chi è che assegna questi bandi? Il sindaco? Lo assegna il Dipartimento Politiche Sociali per l'80% senza bando, quindi vuol dire che circa 20 milioni di euro vengono assegnati ogni anno ai medesimi soggetti senza alcun bando. Beh, diciamo la giustificazione qual è? Che sono situazioni di emergenza, bisogna risolverle in poco tempo, quindi non c'è tempo per un bando. Questa è la giustificazione che chiaramente non regge, visto che i campi sono presenti da 20 anni e 20 anni le persone sono al loro interno, e sappiamo poi quanto un approccio emergenziale consenta azzardi di questo tipo e quindi movimenti di soldi senza dover giustificare più di tanto all'elettore o al cittadino. Ma vale anche per gli immigrati lo stesso discorso? Sì, ma diciamo vale per i centri dei profughi, ma sicuramente la punta dell'iceberg è rappresentata dai campi nomadi, dove veramente ci si guadagna tanto. Noi abbiamo stimato che una persona in un campo costa circa 450 euro al mese, mentre in un centro di accoglienza per Rom siamo cifre anche che arrivano a 900 euro al mese a persona, senza che un centesimo arrivi poi ai Rom. Beh, è un bel affare, poi hanno tanti figli, conviene. Certo, noi siamo su cifre che vanno dai 3.000 ai 10.000 euro al mese a famiglia, senza, ripeto, che nulla va dei rom. Il problema è un problema di legalità. Mi scusi, io faccio un'ipotesi, poi naturalmente è una pura ipotesi. Il fomentare poi il malessere popolare, le manifestazioni piazza contro i rom, potrebbe in qualche maniera essere strumentale, perché così la gente urla, facciamo altri campi, rimettiamo nei campi e guadagniamoci più soldi? Assolutamente sì. Diciamo, questo sistema si sostiene con due aspetti, ci sono da considerare: l'aspetto solidaristico, quindi ci sono quelle amministrazioni che dicono facciamo i campi perché i rom amano vivere all'aria aperta e quindi dobbiamo favorire e tutelare la loro cultura, e l'altro aspetto invece è sicuritario: facciamo i campi perché dobbiamo garantire la sicurezza alla cittadinanza. Alcune volte prevale un aspetto, alcune volte altro, a seconda del colore delle giunte, ma la conseguenza è che il rom deve vivere nel campo. Diciamo che le persone di sinistra cavalcano più l'aspetto buonista. Sì, cioè, e quelle di destra dicono ve li mettiamo in un lager così state tranquilli, poi alla fine fanno le stesse cose e ci mangiano sopra tutti. Assolutamente sì, è così ormai da 10 anni. Noi ci auguriamo che veramente questa volta sia il momento di arrivare alla svolta del superamento definitivo dei campi, come ce lo chiede l'Europa. Basta in fondo riconvertire l'ingente fiume incontrollato di denaro finora dato a queste cooperative, a queste associazioni, in progetti di inclusione reale a favore veramente delle famiglie rom. Allora, 800 24 00 24, quanti stanno ascoltando questa puntata, siano essi cittadini romani o no, tutto quello che voi potete portare di vostro personale contributo alla riflessione che stiamo facendo, che è parallela all'inchiesta giudiziaria mafia capitale, ma allo stesso tempo è ribadire qualcosa che abbiamo già detto, adesso non per fare i profeti a questi microfoni, lasciando proprio del tutto tutto indifferente il nostro pubblico, anzi qualcuno ci dava addirittura dei buonisti perché in qualche maniera giustificavamo, stavamo dalla parte dei rom. In questo momento non si va a stare dalla parte di nessuno, significa non stare dalla parte di quelli che con diverse pretestuosità comunque hanno fatto il grande business anche delle persone più bisognose della società. Ricordo che Redattore Sociale, che è l'agenzia di stampa che si occupa, l'unica forse seriamente in Italia sociale, questa mattina ha pubblicato proprio anche lei un ampio dossier su quello che però anche loro dicevano da tantissimo tempo. Antonio D'Alessandro, buongiorno. Buongiorno. Antonio D'Alessandro è presidente della PARSEC Consortium, che è un consorzio di cooperative sociali che da sempre si era occupato di sociale, però da un certo punto da un certo tempo in poi ha visto che improvvisamente entravano nel mondo di chi si occupa del sociale, che è una professione, un'attività no profit, un'attività che comunque non deve essere fraintesa con il volontariato, entravano soggetti mai visti, mai conosciuti, senza nessuno skill professionale per farlo, e improvvisamente si prendevano tutti gli appalti. O sbaglio? Sì, diciamo che c'è questo fenomeno, e c'è stato anche il fenomeno di finte cooperative sociali. Altro problema grande. E quale deve essere la caratteristica di una cooperativa sociale, sinteticamente? La cooperativa sociale di tipo B, che è quella che noi portiamo avanti, è una cooperativa che dà un'occasione di lavoro a persone che altrimenti non avrebbero la possibilità di averlo. Che potrebbero essere anche disabili, persone che vengono da altri paesi. Detenuti, ex tossicodipendenti, persone che non hanno un curriculum, oppure se presentano un curriculum vengono, diciamo, si rifiutati. Quindi li fa lavorare, da loro un lavoro, uno stipendio logicamente parametrato al loro lavoro, però deve occuparsi di persone che in realtà altrimenti nella società difficilmente avrebbero spazio. Sì, non solo, non è soltanto il livello economico, è anche il livello di coinvolgimento e di inserimento. Una vera cooperativa sociale reinserisce nella società una persona. Quindi l'inclusione è la prima ragione sociale, e poi naturalmente adesso un'inclusione non finta ma reale, ecco. Esattamente, quindi diciamo c'è anche un rapporto di vicinanza con i soci. Cooperative molto grandi o cooperative, ripeto, gestite in maniera manageriale e non partecipativa, sicuramente non rispondono a questo. Quindi è un escamotage per eludere quelli che possono essere i controlli e anche gli aspetti fiscali. Fermiamoci solo un istante, diamo il traffico, poi continuiamo con Antonio D'Alessandro, ci spiega la differenza fra una cooperativa sociale di tipo B e quello che in realtà gestiva il grande mare di soldi pubblici destinati a categorie in realtà che dovevano essere gestite da cooperative sociali. Melog, cronache meridiane. Siamo peggio di terzo mondo. Qua questo campo qua, questo è un ghetto. Questo il comune non ha capito ancora che il campo è più grosso, è più un ghetto. Che qua, dentro questo campo qua, si stanno tutti i ladri, delinquenti. E qua al campo si sa tutti chi sono. Chi ruba, chi non ruba, chi va per ferro, chi va a chiedere l'elemosina, si sa tutto. Tu lavori? Che fai? Al campo. Sei al campo? Come vivi? Dove trovate i soldi? Queste sono interviste fatte in un campo rom dalla trasmissione di Riccardo Formigli, Piazza Pulita. Abbiamo preso per farvi sentire un servizio giornalistico ben fatto che mette le mani proprio nel problema. Stanno scrivendo gli ascoltatori via sms, rom a casa dei Nicoletti, perché non allestiscono un mega campo rom dentro il Vaticano e via dicendo. Non avete capito il senso del programma. In questo momento non stiamo discutendo quale sia la migliore soluzione per risolvere il problema dei rom o il problema dei rifugiati politici, degli emigrati. Stiamo cercando di farvi capire che in realtà voi vi scannavate, scendevate in piazza, urlavate, puntavate il dito contro il buonismo, ma le stesse persone che fomentavano questa irrazionale maniera di affrontare un problema erano quelle che ci mangiavano sopra, che hanno totalmente disinteressate sia a salvaguardare la vostra sicurezza, l'integrità delle vostre case, il profumo delle vostre strade e via dicendo, sia a salvaguardare le etnie abbandonate, le persone rifugiate. Non gliene importava niente a nessuno, era carne da cannone. Trattavano un grande problema emotivo semplicemente per lucrare tanto, fare tanti soldi, con una parte minima di tutto quello che è girato, denaro, in questo periodo e in questa. Secondo me si costruivano delle palazzine intere, dovevano essere messi tutti i rom di Roma, avrebbero avuto un quartiere e non ci sarebbe stato forse più nessun problema. Sbaglio, Carlo Stasolla? Assolutamente sì, ma diciamo neanche una palazzina per solo i rom, ma una palazzina per tutta l'emergenza abitativa, ecco, a Roma. Tutte le persone senza casa avrebbero avuto una casa, se la gente non avesse mangiato semplicemente su una fetta di popolazione. Noi abbiamo stimato che solamente negli ultimi 10 anni, per una famiglia che oggi vive in una baracca in un campo, il Comune di Roma ha speso una cifra vicina ai 300.000 euro. Quindi ecco, ci rendiamo conto della portata del fenomeno. Beh, un bel appartamentino ci si fa in periferia con quella cifra, senz'altro. Certo, un doppio appartamento per una famiglia rom e per una famiglia non rom in emergenza abitativa sicuramente. Allora, riprendo con Antonio D'Alessandro, presidente della Parsec Consortium, per farmi capire la differenza. Voi dite, per fare questo tipo di lavoro con questo tipo di categorie di umanità, la forma costitutiva è la cooperativa di tipo B, che comunque prevede un contatto umano con le persone si tratta, visto che l'aspetto principale, la ragione principale della piccola azienda è quella di gestire dei rapporti delicati con persone che hanno un bisogno di reinserimento, quindi difficilmente si potrebbe profilare, come in questo caso, come delle grandi aziende con queste persone facciano business. Poi bastava sentirli parlare, il fatto che fossero dei manager sembrava un po' dubbio, però si presentavano come tali. Sicuramente, anche se bisogna dire che poi la 29 giugno sicuramente ha dato lavoro e dà lavoro a molte persone svantaggiate. Il problema vero che noi abbiamo, che ci ha colpito anche a noi, è vedere Dr. Jekyll e Mr. Hyde, cioè persone che si presentavano come paladini della cooperazione sociale, che invece erano degli affari assolutamente incredibili. Fra le persone che sono state indagate o colte da questa intervista? Sì, sono attestate. Sono fra quelle? E quindi diciamo è sconvolgente per noi, ne siamo tutti quanti, tra l'altro siamo anche noi vittime, perché in questa situazione chi fa cooperazione sociale vera viene svantaggiato due volte: primo perché non è nella cricca che si divideva gli appalti, anzi tu ne eri una vittima perché ti dicevano tu non sei compatibile con questo sistema e quindi che vuoi. Secondo, adesso sembriamo tutti quanti uguali. Sì, adesso è come il discorso dei falsi invalidi, ogni invalido viene visto con sospetto, dice ah tu forse sei un falso invalido, è la stessa cosa. Sentiamo Giuseppe, buongiorno. Buongiorno a lei, complimenti per la trasmissione, che è interessante. Ascolti, io volevo fare, non sono un artista assolutamente, perché mi prodigo nella mia piccola povertà anche ad aiutare il prossimo, ma non è giusto che si spenda tanto denaro ingiustamente perché non arriva alla fonte, il giusto che si spende dei soldi pubblici, e poi io pensionato italiano e tanti altri come me artigiani sono in pensione con 670 euro al mese, paga il fitto di casa, paga la corrente, paga quello. Sì, ma qua, scusi, Giuseppe, qua stiamo parlando di associazione a delinquere, a stampo mafioso, cioè persone che rasentano ogni categoria del balaffare. Non si tratta di un'assegnazione di denaro pubblico non equa, si tratta semplicemente di denaro pubblico che andava verso dei percorsi delinquenziali. Questo penso sia stato chiaro. Sì, molto chiaro. Purtroppo, ahimè, il legame fra politica e malavita organizzata, come accade nelle città mafiose, molte volte è molto stretto. La cosa nuova, la vera notizia, che a un certo punto anche Roma deve essere ormai annoverata nelle città dove c'è un alto tasso di malavita organizzata. Abbiamo sempre cercato di allontanare da noi questo aspetto, ma quando cominciamo a vedere sempre più persone ammazzate per strada, sparatorie, rapine, e poi si leggono cose del genere, è un po' difficile immaginare che non sia così. Voglio continuare ancora con D'Alessandro. Quando è stato il momento storico che improvvisamente nel campo della cooperazione sociale è entrato qualche soggetto nuovo? Mi sembra che sia trasversale rispetto alla politica. nessuno è assolto, nessuno deve tirarsi fuori da questo punto di vista, nessuno deve puntare il dito contro gli altri. Il PD romano è stato messo sotto commissariamento da Matteo Renzi, quindi evidentemente, e dall'altra parte ci sono ex NAR, un ex sindaco di destra, quindi mi sembra che ce n'è per tutti, non è mai stata così bipartisan una situazione. Sì, però c'è stata una grandissima... Io prima non ho coscienza di quello che succedeva, però sicuramente con la giunta Alemanno c'è stata un'accelerazione, non soltanto sul discorso Rom o immigrazione, ma anche su tutto il sociale, ad esempio sulle tossicodipendenze. Noi abbiamo avuto un azzeramento dei servizi gestiti da strutture che storicamente avevano un intervento organizzato a Roma professionalmente valido a favore di strutture che fino a poco tempo prima facevano altro. È come se una persona che doveva ancora prendere una patente di guida diventava improvvisamente pilota della Ferrari. Ma avete mai visto girare tanti soldi nel sociale nella città di Roma anche in precedenti amministrazioni? Perché poi stanno cominciando a venire fuori le cifre, ma magari queste cifre fossero state destinate al sociale, avremmo molti meno problemi. Guardi, noi dal 2009 al 2013 la nostra cooperativa sociale ha perso l'80% delle commesse del Comune di Roma. Posso dire solo questo, e sono dati di bilancio che sono depositati in tribunale. Quindi degli operatori sociali professionisti si sono trovati praticamente in mezzo a una strada, per dirla in termini comprensibili. Sì, ad esempio sulle tossicodipendenze sono stati persi 30 posti di lavoro di persone esperte da anni su questi interventi a favore di strutture, ripeto, che prima, fino a poco tempo prima facevano altro. Sono esperienze che poi sono un valore dal punto di vista anche della risorsa umana che ci lavora, perché ci vogliono anni, esperienza, pratica e tirocinio. Beh, per quanto abbiamo potuto, in poco tempo abbiamo dato un'idea di quello che è accaduto riguardo il mondo che sta a cuore anche a noi, che è quello del sociale, che è stato vilipeso ancora di più, perché non è un mondo in cui si possa comunque lucrare, ammesso che si possa lucrare in altri mondi. A domani.